buonasera. Chi vi parla dagli studi di Radio Città Fujiko 103.1, finalmente di nuovo in diretta, è Claudia Maite Mau per una nuovissima puntata di Maite FM. Abbiamo iniziato quasi 2 mesi fa e abbiamo fatto solo 3 puntate. Un po' i viaggi, un po' i concerti, un po' le malattie, un po' i festival, un po' le ospedalizzazioni, eccetera, eccetera. Siamo arrivate però perfette questa sera, perché tra una settimana esatta, quindi il tempo giusto della promozione, tra una settimana esatta, il 29 novembre, nello spazio che noi amiamo, se non altro anche perché era attaccato alla nostra vecchia sede radiofonica, ovvero il TPO di via Casarini 17/5, ci sarà una serata speciale, perché quei weekend, quei giorni sono dei giorni speciali, uno dei tanti eventi fissi annuali che animano la vita culturale e sociale bolognese è da 13 anni il Bilbul Bull, ovvero Festival Internazionale del Fumetto in senso lato, che un po', insomma, diciamo che un po' si unisce un po' con la illustrazione, fumetto classico, graphic novel, eccetera, e in occasione di questo evento ci sarà una serata molto speciale, speciale come la notte. E come la notte è questo pezzo. Pezzo dei Romani Wow, disco omonimo come la notte, uscito ad agosto 2019. Poter vibrare solo nell'oscurità, perché in questa serata speciale del 29 novembre si esibiranno molti gruppi dal vivo, ci saranno tantissime cose, tantissime persone che fanno cose, disegni dal vivo, installazioni, sonorizzazioni. Un evento speciale per festeggiare 2 compleanni, quello di Canicola Edizione, che veramente abbiamo visto nascere all'inizio di questo secolo e millennio, quindi 15 anni di Canicola Edizioni, e 5 anni di un'altra realtà super indipendente e bolognese, ovvero la Maple Death Records, etichetta fondata da Jonathan Clancy, musicista che noi conosciamo, apprezziamo da tanto, e che al suo ultimo album Come Is Clanciness dedicammo una delle nostre puntate qualche anno fa. 5 anni in cui la Maple Death Records ha pubblicato un sacco di dischi, soprattutto, no, spesso e volentieri in cassetta, per una cura proprio dell'oggetto, del un po' una visione un po' nostalgica, appunto, quando avevi l'oggetto tra le mani, quindi un'estetica molto particolare, specifica, mentre musicalmente è un'etichetta molto eclettica che, diciamo, raccoglie tutto ciò che è indipendente, DIY, alternativo, rastrellando tutta la scena nazionale, e quindi come gli Wow, che appunto ne parleremo ancora, sono di Roma. sono di Roma anche, anzi non Roma, neanche Roma Est, ma proprio Erpigneto, gruppi che girano intorno al Fanfulla, sono romani anche gli Holiday Inn. Duo acid minimal synth punk. Di cui ascoltiamo il primo pezzo del loro album del 2018, Torbido, e questo pezzo si chiama She. Gabor più Bob Junior, questo duo che dal vivo dà il suo meglio, e come dicevo appunto, come potete sentire, l'offerta della Maple Death Records è assolutamente eclettica e varia. Siamo arrivati a del country blues, a volte bluegrass, made in Veneto, nella Val d'Obbiadene, nella Valle del Prosecco, e soprattutto lungo le rive del Piave, che è nato questo album ormai del 2016, pubblicato nel 2016, addirittura del 2012, ma adesso, dopo grande successo insomma per questo disco di Crano con la K, adesso arriverà anche un seguito, quindi probabilmente dal vivo sentiremo dei pezzi nuovi, ma per ora abbiamo solo, che non significa poco, i pezzi di questo album, Requiescat in Plavem, cioè riposi nel Piave, ovvero RIP. La storia del Piave la conosciamo tutti, cioè veramente la mia generazione ancora imparava a memoria le poesie e le canzoni sul 24 maggio e il Piave che mormorava placido al passaggio dei primi fanti. Un album che appunto usa il dialetto veneto, la lingua veneta, diranno insomma i duri e puri, per una sorta di prosecco country, definito anche Damaged Minimal Folk. Il pezzo che stiamo ascoltando, questa ballata, di cui c'è un video molto bello, proprio cinematograficamente, filmicamente, e che dopo ti fa anche scappare la lacrimuccia alla fine, è Mieti, primo pezzo di questo album di Crano. Non è me, Ma ovviamente noi, essendo una trasmissione radiofonica di musica, non possiamo far vedere la parte visiva, quello che verrà fatto a livello di live painting, di video mapping, di varie performance, proiezioni video, ma sappiamo e possiamo dirvi che sarà una contaminazione totale e continua dalle 20 del 29 novembre fino alle 3:30 di notte, quando Meco inesorabilmente accenderà le luci, di contaminazione totale tra musica e disegno, con 10 artisti in concerto e oltre 20 fumettisti che interpreteranno dal vivo l'esibizione. Ci sono stati esempi illustri nel passato, con Andrea Bruno, durante il concerto di Massimo Volume, e con altri artisti durante le serate di Eno Libri, il vecchio Critical Book and Wine. E dicevamo, dopo i Wow, Holiday Inn, Crano, questa una delle migliori scoperte, diceva, questo disco è del 2017, mi dice Jonathan, cos'è, non ascolti le nostre pubblicazioni? E no, e non ce la faccio a stare dietro a tutto, e sono contenta sempre quando mi viene data la possibilità di conoscere roba nuova. E questo disco si chiama A Personal Voyage, è Day, ovvero di Black Sagan, magari per non incorrere in problemi con gli eredi di Carl Sagan, cosmologo e divulgatore culturale. E anche qui siamo sulla laguna veneta veneziana per questo album Personal Voyage, uscito nel maggio 2017, che è proprio un viaggio mentale cosmico, come appunto un'esplorazione di scoperte di corpi celesti nello spazio profondo, perché come dice anche l'ultimo brano di questo album, c'è qualcosa da qualche parte nel buio che aspetta di essere scoperto. E l'animatore di questo progetto è Samuele Gottardello. E questo pezzo è il pezzo, mi pare, sì, di apertura dell'album. Abbiamo anche pubblicato il video, credo, ieri. Si chiama Oltre il portale di Bowman, Black Sagan. Che è uscita in cassetta o in formato digitale. Composizioni ambient organiche che si proiettano attraverso dimensioni inesplorate, anni luce da noi. Poi anche un'uscita sostanziosa, 90 minuti di musica. e registrato in casa durante notti insonni con solo l'uso di un Farfisa VIP 202R, un organo, un Roland TR-606, ovvero una drum machine e un sintetizzatore. Quindi noi stasera ascolteremo musica da 8 gruppi più un qualcosina che si è aggiunto alla fine, ma proprio un minuto e mezzo, giusto un omaggio doveroso a chi ha messo su parte di questa grande baracca in senso positivo, ovvero la serata del 29 novembre, Canicola 15 per Maple Death 5. E un'altra band romana, Roma Est, che vede anche Gabor degli Holiday Inn nella sua formazione, sono i Metro Crowd, nome appunto ispirato alla Metro C che passa al Pigneto. L'album si chiama Planning, è uscito ad aprile di quest'anno. Il primo pezzo dell'album si chiama Gas in a Wagon e proprio poche ore fa è stato pubblicato un video. Industrial post-punk che convoglia nella sua musica dosi massicce di paranoia. Io ho scritto da lavoro dipendente, infatti confermato dalle definizioni successive: psicosi metropolitana, cubicoli di multinazionali, lavori statali e totale annichilimento dello spirito. sì, è veramente. Allucinante, annichilente. Il primo pezzo d'apertura di Planning dei Metro Crowd, Gas in a Wagon, e adesso rimaniamo, anzi forse aumentiamo il rumore, ma un altro tipo, più noise, più punk, più rock and roll, è quello degli Hallelujah! Punto esclamativo, che avevamo già suonato un pezzo tratto da questa stessa release ormai di diversi anni fa, che racchiudeva un primo singolo e poi altri pezzi sempre in formato cassetta. Suonammo appunto per la puntata dedicata a Isolation Culture di East Cleanliness, suonammo un pezzo di questa release appunto dal titolo Red Mestruo. Invece questo è The Power of Chin o Sin. Quindi ci saranno anche gli Alleluia che rotoleranno giù dalle montagne di Trento e Verona per diffondere la parola del Signore e disturbare i cattivi con ondate di rumore. La prima pubblicazione che avevamo nominato in realtà era uno split, ovvero un 45 giri a metà, una facciata a testa insieme agli Holiday Inn. E la pubblicazione della Maple Death Records in realtà è una ristampa del debutto su 12 pollici uscito nel 2015 e andato sold out, pubblicato un'altra etichetta, la Depression House, e aspettiamo anche insomma della roba nuova. E alterniamo appunto piano, forte, organico, acustico con elettrico rumoroso. Siamo arrivati ad ascoltare J.H. Gourage, forse dal suo lavoro del 2016 Underrated Glances at the Edge of Town, ovvero sguardi sottovalutati ai limiti e bordi della città. Ascoltiamo due pezzi molto brevi. Same Mess Again, più Revelations in a Parking Lot. Thank you. per un musicista, Dominik Vaccaro, proveniente da uno dei paesi albanesi del sud Italia, ce ne sono alcuni se non lo sapete, tra Calabria e Sicilia, e uno è Firmo. E poi invece un viaggio nel panorama montagnoso, roccioso dell'Albania, quindi un po' un viaggio alla ricerca delle proprie origini, ha portato Dominik Vaccaro a scegliere il suo nome d'arte, Guraj, preso da An Old Sage Picker, che ha incontrato in un viaggio, tradurrei così a occhio, un vecchio raccoglitore di salvia, o magari è tutt'altro. Per questi pezzi strumentali tendenzialmente improvvisati, proprio una psichedelia a sei corde, molto molto delicati e estremamente piacevoli. E non ci allontaniamo molto sonicamente, siamo passati agli Heart of Snake, che nel maggio 2018 hanno pubblicato due suite, 1 e 2 semplicemente, di circa 15-16 minuti l'una. Loro vengono da Torino, sono Vincenzo Marando e Alberto Danzi, chitarra classica, arricchite poi loro chitarre da molti altri strumenti, e ovviamente non potendo suonare i pezzi nella loro interezza abbiamo estrapolato un 6 minuti dalla prima traccia che compone questa uscita. In cui, insomma, perdersi nell'ascolto. Heart of Snake. Ma dov'è che potrete vedere e ascoltare tutte queste band che stiamo suonando stasera e che vengono dal cosiddetto roster della Maple Death Records? Li potrete ascoltare al TPO la sera del 29 novembre a partire dalle ore 20 fino alle 3:30 di notte, dove appunto si susseguiranno tantissime performance, installazioni, concerti, eccetera. E per tutto l'evento il disegno, visto che appunto Maple Death sonorizzerà quelle che sono le prodezze artistiche di alcuni tra i maggiori autori della scena contemporanea italiana del disegno, come Andrea Bruno, appunto, Elena Guidolin, Federico Manzone, Roberta Scomparsa, Sara Mazzetti, Dario Sostegni, Vit Moretta, Paolo Cattaneo, Silvia Rocchi, cui ricordiamo graphic novel su Alda Merini, Martoz, Vincenzo Filosa, Alessandro Tota, Marino Neri, Maurizio Lacavalla, Ida Cordaro, Fabio Tonetto, Lorenzo Mo, Irene Montemurro, Gianluca Ascione. con la presenza anche di un ospite internazionale, Ivan Alagbe, artista culto in Francia. Composizioni misteriose, cupe, antiche. Dove appunto accanto alla chitarra classica sono altri strumenti, l'onde martenot, la viola, il vibrafono, le tastiere, la steel guitar, sintetizzatore e percussioni. Ascolteremo due almeno, ma in alcuni casi anche tre pezzi per ogni band che si esibiranno. In realtà c'è un'eccezione, la scopriremo più tardi, e quindi torniamo ai Wow, con cui abbiamo aperto, sempre tratto da Come la notte, uscito ad agosto, quinto album di questo duo di Roma formato da China Wow e Leon On, sempre loro in area Pigneto, per questo album molto molto retro, molto notturno, molto intimo, l'intimità come un sentiero sacro, l'intimità come un'arma, l'intimità come una reazione, un rituale notturno che diventa un'essenziale routine per la sopravvivenza. Se domani prima arriverà, restiamo ancora un po' a parlare. Proprio perché non ha futuro, noi non abbiamo niente da temere. Non mi importa delle cose straordinarie, cerco niente di speciale, cerco spazi di disagio esistenziale per tornare. Ma certo un bella aspetto. Niente di speciale, di wow, tratto da Come la notte, un album che ha ottenuto grandi lodi. Anche da testate straniere, cioè la NPR, ovvero National Public Radio americana, che ha dei programmi musicali veramente dedicati alla musica alternativa veramente sopraffini, la BBC ma anche internazionale, Blow Up e un altro sito americano, Brooklyn Vegan e la testata Aquarium Drunkard. Di speciali si chiama il pezzo, ma invece di cose speciali dentro questo pezzo ce ne sono diverse. E torniamo ai pazzi Holiday Inn, sempre tratto da Tor Bidot, pubblicato anche dalla Avant Records oltre che dalla Maple Death. Ascoltiamo un altro pezzo, uno di quelli che ci è piaciuto di più, Dirty Town, che ci sembra abbastanza adatto a Roma, senza offesa. Tra l'altro, l'altra metà dei Holiday Inn ovvero Bob Junior sarà uno dei DJ della serata, perché ovviamente concerti dal vivo ma anche DJ set e sonorizzazioni. Quindi durante e dopo i concerti ci saranno DJ e sonorizzazioni, immagino appunto usando la saletta bar a cura di No Glucose Festival, Bob Junior appunto, Andrea Marini de Saba Saba, altra band della Maple Death, Carolina Martinez e da Londra Richard Greenan, fondatore della Kit Records e DJ di NTS Radio, una radio che noi nominiamo spesso e volentieri anche perché sono tantissimi DJ, producer, musica elettronica da club che hanno i loro programmi, compresi Mount Kimby, e ciò mi dà spontaneamente l'occasione per dire che Mount Kimby faranno un DJ set per una serata targata Robot il 7 dicembre prossimo 21. We'll be right back. pezzo veramente molto figo. Un po' Suicide, come insomma un po' sempre questi suoni fanno tornare alla mente. Ma una cosa speciale è un altro live che unirà, come sempre, insomma, i leitmotiv della serata, musica e disegno, ovvero Gli Sprecati, che vedrà appunto il ritorno sul palco di Jonathan Clancy. Eccola la sorpresina. Firma Jonathan Clancy, ma Obsessive JC. Questo brevissimo pezzo sembra quasi una ninna nanna, si chiama Out of Nowhere, e appunto Jonathan tornerà sul palco a suonare insieme a Michelangelo Setola, che invece disegnerà, e presenteranno questo lavoro, Gli Sprecati. Ma torniamo al Veneto Blues Country di Crano, ovvero Marco Spigariol, con un pezzo che si chiama Skei, e lo sanno tutti, no? Pilla, diremmo noi qui a Bologna. Gli Sordi. E a Skei abbiamo voluto unire, io l'ho definito il secondo movimento, nel senso c'è un ultimo pezzo del disco, si chiama Va Pian, che dura una quindicina di minuti. In realtà Va Pian finisce, poi inizia un altro pezzo che poi è all'inizio e alla fine del video di Mi e Ti, che poi diventa un'altra cosa, insomma, Crano. questo, il secondo movimento di Vapian, tratto da Requiescat in Plavem di Crano, di cui abbiamo ascoltato Skei, un disco che appunto nelle atmosfere mi ricorda un po' il primissimo Beck, quello di Stereopathetic Soul Manure. Ma dicevamo di questa performance speciale, questo connubio tra Jonathan Clancy e Michelangelo Setola, Gli Sprecati. I due artisti si sono scambiati per un anno tavole a fumetti e brani musicali, alimentando la propria opera attraverso le suggestioni reciproche. Gli Sprecati è un progetto in progress che prevede live sempre diversi, l'anteprima di un libro di grande formato per Canicolo Edizioni che sarà presente nella serata del TPO, la stampa di un concept album in uscita nel 2020, ovviamente per Maple Death Records. La performance Gli Sprecati, leggiamo dal comunicato stampa, restituisce attraverso la musica e il disegno dal vivo le atmosfere di un indefinito sud del mondo tra natura arida e città industriale, e invece noi lasciamo la realtà terrena, terrestre, pedestre e ci riproiettiamo nello spazio profondo, ritornando ad ascoltare Black Sagan, Personal Voyage, con un'unione a questi pezzi molto lunghi, selezione di parti, di pezzi che insomma condensino, possano far capire insomma l'anima del pezzo, da un inizio più calmo poi all'esplosione, all'arrivo del ritmo. E così abbiamo selezionato qualche minuto per uno dei due pezzi. Questo primo pezzo è Cavalcando la Cometa 67P. Siamo passati a miliardi di galassie, questo tiki tiki tiki tiki tiki a me ricorda Girls on Film di Duran Duran, un pezzo assolutamente rispettabile. E leggiamo su quest'opera che mentre etichette straniere hanno raccolto i frutti, cioè i benefici della riscoperta delle colonne sonore psichedeliche italiane degli anni 60 e 70, Samuele Gottardello, ovvero Black Sagan, ha creato la sua propria library music, la sua biblioteca di suoni, unendo e fondendo insieme ambient, droni, elettronica ritmica e un'incredibile abilità di creare esperienze rituali ipnagogiche. Quindi sì, si sentono echi di maestri italiani come Egisto Macchi, Piero Umiliani, Alessandro Alessandroni, il loro approccio ultraterreno alla musica, ma appunto quello che distingue questo disco è appunto il beat alla Kraftwerk che pulsa e che attraversa appunto miliardi di galassie che stiamo ascoltando adesso. Invece Cavalcando la cometa 67P che abbiamo sentito prima è un racconto dettagliato della missione Rosetta e il suo incontro dell'ultima cometa che è passata vicino alla Terra, un racconto che nessuno potrà mai leggere ma che puoi solo immaginare: la sonda file attaccata alla cometa e si scatapulta attraverso lo spazio per sempre. Torniamo all'alienazione dei Metro Crowd con A Dreamless Sleep, un sonno senza sogni, ma diciamo anche due cose sulle realtà che danno vita a questa seratona 29 novembre al TPO dalle ore 20 alle ore 3 e mezza della notte, canicola 15 per 5 Maple Death. Canicola nasce a Bologna nel 2004, 19-15 direi, attraverso un progetto editoriale di ricerca in ambito grafico e narrativo, promozione di giovani autori, esposizioni, workshop, laboratori, si occupa di fumetto contemporaneo e disegno. E dicevo, l'abbiamo vista nascere perché ci ricordiamo le prime uscite che venivano poi vendute a Fragile Continuo prima che diventasse Elastico, insomma quella che era uno spazio che abbiamo frequentato tantissimo e che veniva anche appunto frequentato dagli autori di Canicola, la cui produzione si concentra su una rivista a progetto e libri di autori italiani a cui si affianca la traduzione di autori inediti in Italia. Canicola fa rete culturale con altre realtà estere affini, festival, gallerie d'arte, musei, istituzioni culturali e ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali. Qualcosa di sinistro, sinistramente danzereccio questo pezzo, molto figo. Mentre la Maple Death nasce nel 2014, fine 2014, quindi proprio siamo proprio nei giorni del compleanno. Un'etichetta che si pone al crocevia tra noise, avant-pop, punk, psych, industrial, rock and roll, sperimentazione, con una particolare attenzione all'underground italiano e canadese dei due anime di Jonathan. paranoico, solitario, posseduto, vibrante. Ti sei mai sentito così? La mattina, quando fai il tuo viaggio da pendolare per andare al lavoro, solo un umano perso nella città, perso nel mare di macchine, sopraffatto dal fato, dai fatti e dall'inevitabilità di quelle rotaie che qualcuno ha già disposto per te, determinando la strada da percorrere. Un quartetto, dicevamo, dove molto eclettico e che ha anche punti di contatto con la serata. Infatti uno dei quattro componenti, Vic Sinex, è un fumettista, Gabor l'abbiamo già nominato, voce degli Holiday Inn, Ludovico T, membro del gruppo punk hardcore Sect Mark, e Tony Cutrone dei Mai Mai Mai, gruppo di psichedelia occulta. Per un album che appunto un viaggio kafkiano attraverso un panorama post-industriale dove l'umanità sta lottando per tenere l'acqua, la testa fuori dall'acqua, ovvero per sopravvivere. Nel suono della band, costruito appunto sopra il senso di disgusto, repulsione e disagio. Disagio is the key word. Sarà un gran concerto, immagino. E torniamo al casino degli Alleluia con Space. Pezzo tratto da Alleluia, la cassetta omonima. Una collezione di 6 tracce, alcune molto brevi, poco sopra il minuto, mentre questa Space è forse la più corposa. 6 tracce definite stupide, volgari. Audaci e irritanti. E c'è una recensione di Smashing Transistors che dice: I dropped the needle, cioè ho appoggiato la puntina su questo disco, un'immagine metaforica, e probabilmente è stata come la scena di un cartone animato, cioè il rumore, il volume, l'intensità del volume mi ha fatto andare indietro i capelli. Come dico io quando sto sotto cassa a farmi spettinare dai bassi di solito. Stavamo ascoltando Space Day Alleluia, uno dei gruppi della Maple Death Records. Stavamo leggendo insomma la carta d'identità di questa etichetta italo-canadese, come Jonathan, Ava, Cindy Lee, Jack Names, Electro Blue Voice, Slaylor Moon, Disappear, Saba Saba, sono solo alcuni degli artisti che hanno pubblicato cassette dell'EP per questa etichetta, attirando l'attenzione di magazine e siti, soprattutto stranieri come Gorilla vs. Bear, NPR, Noisy, The Quietus, Aquarium Drunker, BBC, Brooklyn Vegan e The Wire, cioè testate che fidatevi contano nell'ambito della musica alternativa. E dopo l'esplosione cattiva degli Alleluia, torniamo invece ai suoni invece più pastorali e bucolici di J.H. Gourage. Si chiama 13 Last Ride, sempre tratto da Underrated Glances at the Edge of Town. Improvvisazione, presa diretta, suoni d'ambiente si sentono spesso in questo pezzo. È una creatura completamente diversa appunto da quello degli Alleluia. E la sua anima, Dominique, anche lui lavora anche nel campo del visuale, del visivo. Musicista elettroacustico che lavora nell'ambito della musique concrète. Usando apparecchi, dispositivi analogici, registratori a nastro. E invece questa pubblicazione torna al suo primo amore, quello della chitarra, finger picking, dell'arpeggio. Prima si tratta di musica molto frutto di improvvisazione e quindi una musica che rischia, che respira, che vive e muore come ogni essere umano che cerca insomma di barcamenarsi in questo complesso e misterioso mondo in cui viviamo. E adesso siamo tornate alle chitarre classiche degli Heart of Snake per appunto un estratto dalla seconda traccia della loro omonima pubblicazione, dal titolo semplice 2, numero romano. Thank you. Guardando il programma potete trovare tutte le informazioni possibili e immaginabili, una cascata di link sull'evento Canicola 15x5 Maple Death su Facebook, ovviamente elenco dei concerti, punto recita Wow, Holiday Inn, Crano, Jonathan Clancy, Black Sagan, Metro Crowd, Alleluia, JH Courage, Art of Snake, ma il penultimo nome Andrea De Franco e Carolina Martinez, che abbiamo nominato prima, lei ma non lui, Andrea De Franco, anch'esso fumettista, techno ambient, non abbiamo trovato tracce, vero? L'etichetta non ci ha mandato materiale e quindi andiamolo a sentire direttamente. Poi sotto DJ set e sonorizzazioni ripetiamo Bob Junior, Andrea Marini, Carolina Martinez ancora, i DJ del No Glucose Festival che si tiene di solito al Covo, Richard Greenan della NTS Radio, e disegneranno dal vivo tutti i nomi che abbiamo letto prima. Poi c'è videomapping a cura di Pietro Alex Marra. Ingresso 10 euro, che mi sembra assolutamente onesto. E volge quasi al termine questo estratto di 6 minuti, la seconda traccia degli Art of Snake, che risuonano un po' delle colonne sonore di Badalamenti, un po' delle atmosfere del deserto di Ray Cooder, e che richiama anche il lavoro di Jim O'Rourke e i suoi Gastri del Sol. Art of Snake non è semplicemente un altro pezzo della scena, della caotica scena psichedelica italiana, ma spicca per la sua bellezza un viaggio attraverso un panorama rurale dimenticato. Uno, due pezzi, in alcuni casi anche tre, abbiamo deciso di dare più spazio ai Holiday Inn e alla title track del loro album torbido. Holiday Inn, un gruppo che unisce diverse anime e quindi i fan della techno industrial, quelli del hardcore noise, e anche questo pezzo lo testimonia ampiamente, i più devoti della dark wave teatrale. Delle performance dal vivo che hanno cementato la loro cattiva reputazione. Tuffarsi sulle rive fangose del Tevere. Torbide. Ma finiamo forse appunto con il nome più atteso, nel senso forse quasi la release su cui insomma, l'etichetta sta puntando tanto, anche perché vabbè, a parte che è la più recente proprio a livello di mesi, ma poi perché appunto sta riscuotendo molto successo, come abbiamo detto, ovvero i Wow. E questo è il primo pezzo che abbiamo ascoltato, che ci ha abbastanza flashato. Si chiama Occhi di Serpente, tratto sempre da Come la Notte. Occhi di serpente nella ed è forse il pezzo più moderno dell'album. Tutto intorno gira nella sala buia, chissà se apparirai te. Potrebbe essere un disco del 67 o del 73. E vocalmente può ricordare Mina o Patti Pravo, in alcuni casi anche Beth Gibbons. E abbiamo pubblicato poco fa un video di un pezzo che conclude l'album. Il pezzo si chiama Domani ed è una cover. Scritta originalmente da un musicista degli anni 70, Franco Fanigliulo. Non ti lascio andare mai. Che è stata trasformata dagli Wow in un pezzo alla Broadcast della compianta Tracy Keenan. E penso che queste tastiere sono, uniscono questo disco anche ad altri suoni che ho sentito uscire dalla Maple Death. Sei l'anima più psichedelica. Luci scintillanti come spiriti vaganti mentre sfila il ritmo mistico. Sfila tra le vele che ipnotizza come deve, basta un attimo. Ti avvolge, ti sconvolge, ti consuma tra le foglie. Non ti lascia andare mai. Sì, conclude questa nuova puntata, quarta puntata soltanto, perché la vita cambia, però vorremmo fare alcune delle nostre monografie, dei nostri pipponi, diciamolo, a parte appunto la presentazione di serate specialissime e degnissime come questa del 29 novembre presso il TPO, Canicola 15x5 Maple Death Records, a partire dalle ore 20, 10 euro veramente per 7 ore e mezza di arte e musica, di visioni, di immagini, di disegni, di persone che fanno cose, mani che si muovono, suonano strumenti, impugnano matite, pennarelli e qualsiasi altra cosa, e che birre, immagino. E quindi ciao da Claudia Mighty Mouse.